cioè 8808 oppure roba GSM, roba sofisticata, che ormai le microspie ci sono GSM, no, tipo cellulare. La chiami, quella non squilla, non fa niente, aggancia la linea e ti fa sentire il rumore ambiente. E poi ce ne saranno anche su frequenze particolari, non me ne intendo io. Manco io, Marco, l'ho preso e ce l'ho buttata via, non ricordandomi di averla mai comprata, mai presa, l'ho trovata sul mobile così, no? Magari l'ho trovata, che ne so, non me ne ricordo più, chissà quanti anni vera anch'io. E una volta ne avevo una della CTE, ma primi anni 80, cioè comprata a metà anni 80, funzionava in FM, passava una normale radio, c'era il microfono al condensatore, carina. L'unica rottura di scatole che aveva delle batterie a bottone, quindi non è che durasse molto. Ma era tipo radiomicrofono, mi hai capito, per giocare, per così. Questa qua era tipo, cosa ti posso dire, un caricabatterie per batterie ricaricabili, così era grande, con una batteria, due batterie da 1,5. Cioè un barrasone era praticamente. Poi avevo avuto un radiomicrofono della Monacor, sempre 8808, che aveva una sensibilità ambientale. L'avevo preso da Cineradio 33, quello che era in via Roma mille anni fa. E ho capito che prima era all'emiciclo, Romeo 33, come si chiamava. Sì, quello che c'è all'emiciclo prima, dove ho comprato quel baracchino SOS. E ho comprato lì anche il piatto della Sony, che l'avevo pagato 350.000 lire allora. Erano, forse prima erano assieme, poi si era separato, adesso non mi ricordo, sono passati tanti anni. E una volta in via Roma io avevo comprato una presa scarpe per il videoregistratore. E avevo chiesto, mi ero raccomandato, i poli sono tutti collegati ai piedini? Sì, questa è completa, si ha tutte le funzioni, no? Invece manco per le balle, ogni fottitura. Apro la SCART e c'era collegato solo l'audio e il video e basta. Niente correnti di commutazione, niente di tutte quelle funzioni speciali. Capito? Perché i piedini in teoria dovrebbero essere tutti cablati, invece lì solo l'audio e il video. Io avevo anche chiesto, ma è completa di tutto, tutte le funzioni, le coppe? Sì. E vabbè, mai più andato. Basta vendere loro, adesso ce n'è uno al corso che vende queste cose qua. Eia. Però uno nel dubbio dice, oddio, dice, controlliamo, basta svitare quella vite che c'era in un angolo della scarpa e vedere se a tutti i piedini corrispondeva a un filo elettrico. Sì, fa tutto, le balle. E io poi l'avevo presa altrove. Adesso le scarpe sono talmente obsolete, porca miseria, com'è. Nei televisori nuovi non ne vedi nemmeno lontanamente di scarpe. Cos'è questo odore? No, mamma ha scaldato la roba da mangiare. E cosa stavo dicendo? Ah, i nuovi televisori, ma nemmeno, alcuni non hanno nemmeno gli ingressi RCA, no? L'audio video RCA. Solo, come si chiama? Uffa, HDMI. Sì, tanto è vero che io prima che smettessero di fare videoregistratori per le videocassette, avevo comprato e ho tuttora un videoregistratore che fa da lettore di videocassette più lettore non Blu-ray, ma come si chiama? Dei dischetti, fa il lettore dei video. E praticamente quello lì c'ha la presa a scarpe. Se io dovessi cambiare quel televisore non posso utilizzare manco più quello. Sai quanti film ci siamo guardati? Profondo Rosso, tutti quelli di Dario Argento, ce l'avevo tutti i cassetti. Io ho questo Grundig vecchio, LCD ancora, e quelli anche profondi, cioè è un barzone, ci avrà più di 10 anni, 15 anni ci avrà, presumo. Però quindi ho bene videocassette, videoregistratori, quelle vanno tramite scarte, tramite audio video. E tanto a riversarle ci vuole tempo, ci vuole attrezzatura, non ne vogliono. A parte che non mi funziona più la scheda di acquisizione video del PC. O meglio, la scheda va benissimo, il processore che mi si è dimezzato, c'è qualcosa che è partito nella computer a torre, no? Perché prima potevo riversare da VHS a, vabbè, formato digitale, una qualità, vabbè, accettabile è una parola grossa, però potevo salvare anche i filmati fatti con le telecamere, no? Quella roba lì, adesso un cavolo. Paga. No, io te l'ho detto. Quei 15 giorni famosi ci siamo guardati molti film, avevamo la stessa passione, io c'ho la passione per i film di Dario Argento, mi piacciono troppo. Ero macabro prima, mi piacere quei film. O quelli o quelli comici. Guardavo molto quelli di Dario Argento comunque, siamo guardati Profondo Rosso, Il Gatto all'Ovecone, Il Corvo, poi abbiamo guardato un film che si intitola Spiritica, non so se l'hai mai visto. Com'è il titolo, hai detto? Spiritica. Oddio, no, non mi sovviene. Io avevo la passione per l'horror più da piccolo. Dario Argento, oppure tutto l'horror, adesso mi sono stufato con l'horror, veramente stufato. Più bella roba tipo fantascienza, thriller, tutta quella roba lì. Però l'horror non riesco a farmelo piacere più. Allora, Spiritica è un film che si basa su una greffa di amici che si trovano in questa casa e uno di questi porta una tavola per fare sedute spiritiche e propone di fare questa seduta, eccetera, eccetera. Uno di questi si mette a ridere e cominciano le sedie a muoversi, i quadri che si muovono, eccetera, eccetera. Da lì hanno fatto le cose seriamente, hanno chiamato lo spirito, si è presentato lo spirito, tutto quanto. Poi se ne sono tutti andati e questo si è dimenticato la tavola. Che cosa succede? Che quando c'hai la tavola non puoi usarla se non sono 6 in tanti, da solo non la puoi mai usare. Questa qua, la padrona di casa, l'ha presa la cosa, sai come sono le donne, è venuta voglia di provare, vedere che cosa succedeva, lì si è apparso questo spirito maligno e ha cominciato a fare dispetti e cose, e poi ha cominciato a ammazzare gente, eccetera, eccetera, insomma, una cosa da vedere, insomma. Sì, aspetta, eccolo, l'ho trovato, con la K, Spiritica, vediamo se riconosco gli attori, oddio, hanno interpreti, sì, Todd Allen, Tenic, no, non li conosco tanto, però vabbè, si può vedere da qualche streaming, non so. Vediamo la trama, però non guardo la fine e non me la dire, perché sennò è inutile, non ne guardo nemmeno se sono la fine. Ehi, facendo arrabbiare lo spirito, tutta roba che non sai che cosa ti arriva mi dall'altra parte. Vabbè, io lo prendo come un film, già lo sai, io già non credo in Dio, figurati se credo nelle cose paranormali. No. Eia, ma... Io una volta, a me è successo, io una festa in campagna. Con degli amici abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo deciso, questo aveva la tavola, e abbiamo deciso di fare la città spizzica. Adesso non so se c'è stato qualche trucco, qualche cosa, abbiamo messo tutte le mani sopra e si è mosso il bicchiere e ha assediato lo spirito del generale Baduglio. La mamma di questo mio amico, che era una maestra e conosceva d'arte eccetera eccetera, quando ha sentito la data di nascita e tutto quanto, si è messo un lenzuolo in testa e se l'è scappata per tutta la campagna gridando, scioccata. La tavola, come che si pronuncia? Ogia, quella con le lettere. Mamma mia, no. Vabbè, che poi io non credo, ma dubbioso comunque, però non le farei, meglio non rischiare. Nel dubbio, no? Va bene. Mia madre diceva che sono cose più grandi di noi, di lasciarli in pace pure. Appunto, nel dubbio, cioè io le mani nel fuoco non ce le metto, che esistano o no certe cose, e quindi è meglio non rischiare a fare cose strane. Sì, gli attori non... sto guardando anche le foto del film, la locandina, però non me li ricordo questi attori. Ce n'è uno col ciuffettone davanti, con una camicia tipo country, no, quadretti. L'altro è un biondazzo con i capelli orribili, che con i capelli tipo Big Jim, me. Quello che si è messo a ridere ci ha trovato la macchina con le ruote bucate quando è uscito fuori. Minchia. Però un bel di locandina hanno messo, e poche immagini del film. Poi hanno fatto anche Spiritica 2 qua, mi risulta. Però è un film che non mi ha lasciato il segno. Dario Argento mi piaceva all'epoca. Poi hai visto, spesso l'assassino era una donna nei film di Dario Argento, almeno in quelli primi. Deve essere che ce l'avesse con le donne lui, in un certo senso. Sì, anche quella, la sindrome di Stendhal, era una donna, era una donna. Ah, quello con Asia Argento giovane, lo dovrei rivedere. Lei era una poliziotta, mi pare. E poi un serial killer, non so, rapisce anche lei, tutta una cosa schifosa con le lamette, ti ricordi? Le tagliava il labbro. Sono abbastanza perversi questi film di Dario Argento. Io penso che qualche turba psichica l'aveva, eh. Ma lei o il padre? No, il padre. No, il padre, già, come lo vedi in faccia, siamo uno zombie. Poi a Argento, vabbè, molti la criticavano. Diciamo che si è impegolata in queste cose, ha cominciato a fare la strana, è entrata in questo gruppo di donne Me Too, no, un po', ma voglio vedere quanto c'è di vero in queste menate. Sono delle pazze furiose quelle, pazze furiose. Marco, oramai è tutto un marciume, nel mondo dello spettacolo non c'è più nulla di vero. Adesso si è scoperto che Gabriel Garco praticamente inscenava amori strani, faceva vedere di essere fidanzato con uno e poi non era vero, lo faceva lo solo lui, era gay, capito? Vabbè, la Zoe 105 lo prendevano in giro dicendo che era già una... un po', no, così. Dei discorsi che sentivano quando era con amici in macchina, sai, voci e corridoio. E insomma, praticamente la logica era troppo bello per essere eterosessuale, così è. Avanti. Come stai uscendo? Perché sei così basso? Ma l'antenna ce l'hai attaccata. Ciao. Sei basso. Ecco. Ma non è solo il microfono che è basso, ma è anche il segnale. Non so da Marco se stai arrivando così, ma bene, arrivi basso. Avanti, Marco. Sei il cacchio da Ruggito. Sì, ciao. Adesso no, è Claudio il nome, giusto? Mi ricordo più il numerativo che il nome. Dunque 8,5 il segnale, però la modulazione è bassa, bassina, come se fosse un omologato di quelli stretti, però nell'ultimo passaggio sei uscito di portante. Vediamo se adesso è tornato a posto. Avanti, chiodo. Non modulare. Non esce di radio. Io non lo so, io. Allora, negativo, chiodo, c'è il segnale ma radio completamente assente in tutto il passaggio, infatti Gianni non capiva se stavano parlando o no anche. Cappa. L'altro giorno stavo scendendo un va bene, e oggi buh, di nuovo basso. Eia, ho capito che si è incasinato tipo l'MB più 5, sì. La radio adesso è tipo 2, è capibile, però è molto ma molto bassa. Comunque ho capito il passaggio, dai, eia, e non hai voglia di aggiustarlo oggi. Ehi, già ci avrei tempo, voglia. Ok. Gianni, vado a prendere l'acqua, che qua io ho bisogno sempre di bere. Riprendi tu. Bevi, ti fa bene. Sì, anche da Ruggerito, ma com'è attaccato quello? Non è attaccato quello l'altro giorno, l'apparecchio, non ci vivi bene, o l'altro giorno ci vivi bene. Ma adesso di segnale già vai bene. Però non vai bene di radio. La radio è bassa. Noi la radio di 102 al massimo. È bassa. Ma che microfono stai usando? Eia. Ma il problema è che stai uscendo a tratti, a volte esci, a volte non esci. Anche adesso. Lasciamo un attimo di bianco tra un passaggio e l'altro, vediamo se vuole entrare qualcuno e poi rilancio tutto a marzo. Sì, confermo Claudio che sei uscito a tratti, il segnale è aumentato abbastanza, sei oltre 9 più 5, quasi 9 più 10, però la radio è estremamente bassa e a tratti. E vabbè, appena puoi rimedia, dai. Quando è che arrivavi bene? Quant'era? 3 giorni fa? Quando è che ce l'avamo sentiti? 3 giorni fa. Sì, la radio è aumentata adesso. Succede. Ma a dire che è forte la radio è una parola grossa, però ti sento meglio di prima. Sì, adesso alzando il volume magari ti sento meglio, dai. La modulazione è salita ulteriormente, diciamo come volume 3, come comprensibilità, la comprensibilità c'è, una radio 3 più che altro come volume, comunque capibile. Sì, stavo dando un'occhiata a quel movimento Me Too, no? Che sono praticamente femministe sfegatate. Ci sono molte attrici che, anche con la storia di Weinstein, come si chiama, quello laido, cioè per 15-20 anni gli è andato bene magari andarci a letto, no? Per fare carriera, adesso sono tutte diventate vittime, ci hanno mangiato nel letto di Weinstein per 20 anni, adesso tutte vittime, capito? Però anziché fare denunce all'inizio come ci fa la polizia, se poi le fanno su Twitter, quella è tutta ricerca di visibilità, capito? E c'è anche mezzo Asia Argento, si è messa con questa cozzaglia, poi ancora queste c'hanno il movimento femminista in testa, roba di 50 anni fa, allucinante, e sono tutte donne che ce l'hanno con gli uomini, capito? Poi, riprendi Claudio. sarei cambiato ditta. Passaggio è stato capibile, dai. Ecco, io quello volevo chiedere, appunto, se era un problema di operatore o un problema di linee, di cablaggi, no, o fibre ottiche. Ho sentito che da quando hanno messo la fibra ottica un po' di problemini. E probabilmente, sa cos'è, che nelle zone periferiche ancora non è fatto bene. Non lo so, ancora non c'è capillarità forse nelle fibre ottiche, oppure non saprei. Qua più volte hanno insistito per mettere la fibra ottica, Tiscali ha insistito per metterla, però io ho sentito questa storia che si fermano alla prima presa utile appena passi la varchi la porta, no? L'ingresso di casa. E poi dovrei chiamare uno che se ne intende per portare la fibra ottica nella stanza di interesse, ma a me per una fesseria. Eppure a qualcuno è successo. Poi chi lo sa fare se lo fa in casa per conto proprio, non credo che sia così problematico. Io le avrei detto, ma se volete che io metta la fibra ottica, allora l'operaio mi deve portare nella stanza del telefono la fibra ottica, fin lì, dove c'è il computer. Se no è inutile che ne mettete, se poi devo spendere una cifra ulteriore. Poi, siccome non ci fanno pagare me adesso, a peso d'oro i tecnici, per passarti un cavo, o una fibra ottica che sia. Vai Gianni. Vabbè, comunque con queste fibre ottiche anche io ho dei problemi. A volte manca internet, mi tocca a mettere la connessione ai dati per collegarmi, insomma non è una cosa fissa, diciamo, continua. A volte dà problemi. Io sono rimasto a Tiscali 8 mega, 8 megabit, capito? La DSL lì. Problemi non ne dà. Perciò io temo anche cambiare, cioè lasci la strada vecchia per la nuova, non sai cosa trovi. Cioè, vabbè, la rima non l'ho fatta, ma il senso è quello. Vai Claudio. Telefoni glielo dici che questi giorni qui voi non avete avuto se non ti danno il servizio ti devono risarcire, è normale. Leggendo le recensioni degli operatori telefonici, purtroppo ci sono clienti scontenti, disguidi, c'è forse anche grossi, gente che ha cambiato operatore, oppure ha fatto un cambiamento, no? Come può essere passare dal doppino di rame alla fibra. E ho letto c'è gente imbecillita che è stata 8 mesi senza telefono, senza linea internet, continuando a fare sollecitazioni e quelli continuando a non andare a rimediare alla cosa. E intanto continuando a pagare il fisso mensile. Boh. E non ce ne salva uno di comunque né team né coso né fiscali. Va bene. Sto andando incalando già, dai, riprendi tu. Io riprendo, e fra poco devo andare a portare giù il cane. Mi ordinerò una pizza stasera. Vediamo un po' se ce la faccio, perché l'altro giorno prima delle 10 non le portava, no, ascolti, se la tenga. Eia. Vabbè, il cane stavi dicendo, portare il cane. Sì, scusa, mi sono distratto un attimo. Ma l'ho chiamato. No, fra un po' ancora alle 8 porto. E adesso che cosa c'hai come gestore o qua? Cosa ci avete di gestore? Ma non esce di radio. Sì. Un attimo, stavo controllando la lavatrice. non è che la stacchi, che proprio le tolga il fusibile a sta lavatrice. Mi sta rompendo le scatole. Cioè, va bene, inutile che te ne dica. Claudio, c'è ancora? Piace che sia andata così, ma fatelo controllare il microfono, dai. Avanti Marco. Ehi a Claudio, dai, sentiamo in migliori condizioni, perché la modulazione è altalenante, un po' c'è, un po' non c'è, dai. Ok, ma non è un problema, comunque non... qualche filettino tocca, non tocca, dai, non è un problema. Oh già, no, era un buriatto perché qua non vedi schiuma nella lavatrice. Cioè, se tu metti roba per 7 kg, metti il coso, il detersivo per 7 kg, no? Col misurino che c'è millilitro. Se ne metti un chilo, metti il detersivo per un chilo di roba. Invece qua, quota fissa, tappino pieno, un bel di schiuma, anche lo risciacquo. Adesso dovrò risciacquare tutto, pigliare in culo. A me il tecnico mi ha detto che aveva messo mezzo misurino di... hai visto il tappo del dash? Quello lì va messo a metà, di detersivo. E un misurino di cosa? Di ammorbidente. Boh, è fatto io. Ti fa un bucato profumato, bello, pulito. Però non fisso, cioè per dire sul Dixon dietro c'è anche la tabella, no? In base ai chili di roba che metti, ti regoli con la proprio con un misurino graduato. E qua è quota fissa, cioè si spreca un bel detersivo in più. Qui ammorbidente non te ne dico, qua sembra che se lo beva l'ammorbidente, ma inutile, più le ridisce più continua. Io ho la stacco, la salvatrice la gestisco io. Vabbè. Vabbè, tanto non è che risolvi molto, perché sporca la lavatrice e basta, mettendo questo detersivo alla fin fine. Io ogni tanto li metto anche disincrostante, perché se si incrosta poi succedono casini. Sì, si spreca il detersivo, poi fa tipo colla, fa le mattonelle di dure, le morchie, come le vuoi chiamare. Ti infogna tutto. Però vabbè, quando una un po' anziana che non glielo dici un milione di volte, no? E per un milione di volte fa la stessa cosa, lo stesso errore, allora lì il problema è un altro, dai. Va bene, non è successo niente. Aspetta un attimo che chiamo la pizzeria, va. Baba, pizza frutti di mare? Hai indovinato. Vabbè, poco da indovinare già, tu prendi sempre solo quella. A me piace molto variare, penso una volta i formaggi, quattro formaggi, una volta le verdure, una volta che ne so. Vabbè, un po' tutto, dai. Fai, telefona. Tanto adesso a breve mi preparo la serata, poi se vediamo se più tardi si esce. Mi sa che oggi è chiuso Marco, lunedì è chiuso. Christian Pizza è chiuso lunedì. No, io la prendo o ai frutti di mare oppure la prendo tonno e cipolle. È copiato. Prova, vediamo se abbasso. Prova. C'è un barunda. Non è successo. No, stavo parlando del mic gain, se diminuendo poco diminuiva in modo significativo. Cioè così è tutto a manetta, adesso lo metto orizzontale, prova. Adesso è orizzontale. Cioè l'ho diminuito di pochissimo, meno di un quarto di giro, dai. Ma non cambia più di tanto. No, ti stavo dicendo, me la prendo nel lucchio perché è chiuso. Cristian Pizza è chiuso, dove la faccio io. Adesso mi tocca farla qua e con le frutti di mare non mi piace come la fa. Li mette i surimi di granchio, e qualche pezzettino di coso, di come si chiama, di arsena. Non tutti hanno gli ingredienti, poi ti ho detto certi roba sott'olio, roba, ma pucci, passi congelata, però che sia roba di mare, che sappia di mare, capito, non di olio, di olio motore magari, aspetta un messaggino, queste cose, queste vignette di Conte, aprici, lo stanno facendo. Conte aumenta lo stipendio ai suoi dirigenti alla faccia degli italiani in cassa integrazione. E c'è la faccia di Conte che se la ride con la mascherina tolta. Mamma mia. E adesso vogliono aumentare anche l'età pressionabile, un casino. Guarda, ero già contento che fra 2 anni mi andavo in pensione, vacca, se la vogliono aumentare di nuovo. Ma vabbè, lasciamo fare, cosa devi fare, tanto, se te la prendi in piccio. Vabbè Marco, dai, io ti saluto che vado a portare giù il cane, adesso mi ordino la pizza da un'altra parte e porto giù il cane, così poi quando ritorno mi arriva la pizza. Andà bene. Ciao Marco, dai, buona serata, buon tutto. Ciao già, buona passeggiata, copriti che c'è abbastanza fresco rispetto a 2 giorni fa per esempio, forse anche rispetto a ieri. Ci sentiamo, dai, buona passeggiata, buon tutto. Ehi, no, io già sto uscendo con la giacca a vento. La sera me la metto. E te se sappi la glottite, dal freddo. Capito? Quindi, sto coprendo anche a lui. Vabbè. Andiamo. Ciao Marco, ci sentiamo, buona serata, buon serata. Ehi, ciao già, ma il cappottino per il cane, come si chiama, dai, più che altro li ho visti sui cani piccoli, quelle cose lì, però è meglio riguardarlo, ok, dai, ciao, sentiamo già, ciao. No, lui c'ha la giacca a vento, quella impermeabile, anche se piove, c'ha l'impermeabile. Sì, dai, sentiamo, ciao, tutti, ciao.